that is to distinguish from enjoy and indulge, can this be can be used also for sexual desire? Very difficult. I think you will have to practice a lot. Penso che devi praticare parecchio. The Buddha says this is the most difficult one. The Buddha dice questa è la più difficile. I think if the sexual act is done within a loving embrace, se l'atto sessuale è compiuto da dentro un abbraccio amoroso, and the attention is upon the partner, e l'attenzione è rivolta al partner, so that's one way of undermining it being just a selfish act. E questo è un modo di diminuire l'egoismo dell'atto sessuale. When the act becomes simply for one's own self-gratification, se l'atto diventa cioè è fatto solo per la propria autogratificazione, then it becomes a form of lust, diventa una forma di bramosia. Bramosia. Lussuria. Surya. Yeah, lust. Surya. For me, these are distant memories. Per me queste sono memorie del passato. Memorie lontane. Even so, I remember them. Ma nonostante mi ricordo. Yes, yes. Yeah. Very good. Sì, va bene. Yeah. All right. Okay, the next one. Quali sono le differenze sostanziali tra buddismo Theravada e tibetano? Tra meditazione vipassana e analitica. Differences between Theravada and Tibetan Buddhism and between vipassana and analytic meditation, it says. Yes. Well, the Tibetans are heretics. The Tibetans? Sono eretici. Sì. So we don't have an argument. Quindi non c'è discussione. Heretics. Heretics? Heresy? Come si dice? Eresia. You know, the Christian church burns heretics. Sì, gli eretici. Okay? Okay. All heretics. If you see the evolution of Buddhism, se guardi l'evoluzione del buddismo, you'll see that certain parts of the teaching are stressed more than others. Vedi che alcune parti dell'insegnamento sono enfatizzate più di altre. The five faculties, the five faculties, le cinque facoltà spirituali. Okay, so we have panya. Panya, abbiamo panya. So this becomes this huge intellectual exercise. E questo diventa questo grosso esercizio intellettuale. Interestingly enough, the Indian monk Bodhidharma. È interessante che c'è il monaco indiano Bodhidharma. Of the Middle Ages, I think. Our Middle Ages. Del corrispondente al nostro Medioevo. Named after me. Che si chiama così perché ci sono io. Cut through all the literature. Literature. Cut through all the thinking, all the intellect. Si sbarazzò di tutto ciò che è la letteratura, l'intelletto. He just sat for 9 years facing the wall. Si sedette per 9 anni guardando un muro. And lost his legs. E così perse le gambe. You know those Daruma dolls, the Chinese dolls that go like this. Conoscete le bambole cinesi? Che vanno così senza gambe? Sì, queste sono Daruma dolls. Daruma. So Zen begins with no literature, just pure practice. E quindi lo Zen è iniziato con Niente letteratura, solo pura pratica. Ah, but now, of course, it has volumes of intellectual understanding. E ora, naturalmente, ha volumi interi di comprensione intellettuale. Ah, so, what's the first one? Faith. Ah, faith. La fede. Confidenza. Confidence. Ah, confidence. So, this we see mainly in Amida Buddha. Allora, l'aspetto del sadda, quindi fede e fiducia, è più nella dottrina di Amida Buddha, the pure land, Amida, pure land sect, la pura terra. Lo sai? Cinese, giapponese, no? Sì, anche. The pure land sect? La setta della terra pura. Sì, lo sai? Qualcuno la conosce? Sì. Allora, in this sect, you pay homage to the Amida Buddha. E in questa setta si fa omaggio al Buddha Amida. And you grow in virtue. E si accrescono le virtù. And when you die, you're born in the Amida realm. E quando si muore, si rinasce nel regno di Amida. Where you can continue your progress. E dove si può continuare il progresso. Because this world is too corrupt. Perché questa terra è troppo corrotta. Ah, so this is Japanese actually. Honen. Honen. È probabilmente giapponese questo. Honen. Faith. Concentration. La concentrazione, samadhi. This is Tantra. Tantra Buddhism. Eh? Nel buddismo tantrico. Ah, because with the Tantra there comes powers. With the concentration there comes powers. Okay, con la concentrazione vengono dei poteri. Mm. So in our scriptures they're known as the Iddhi. Nelle nostre scritture sono conosciute come gli Iddhi. Ah, you can read other people's minds. Leggere la mente delle altre persone. Così. And that's how the Tibetans do the tummo, you know, getting hot in the snow. Ah, e questo snow. È il modo in cui i monaci tibetani fanno questa pratica che si chiama tummo, che è di fare di essere caldi in mezzo alla neve. Ah, concentration. Effort. Effort. I think you see this. Virya. Virya. I'm just thinking what you see that in. I can't remember. Non ricordo ora. Non mi ricordo. No, vabbè. So there's also a shift from wisdom to compassion. C'è uno spostamento dalla saggezza alla compassione. Ah. So in the Mahayana, especially Tibetan Buddhism, they talk a lot about compassion. Nel buddismo Mahayana, specialmente tradizione tibetana, si parla molto della compassione. And in some later scriptures. In alcune scritture più tarde, compassion is more important than wisdom. La compassione è più importante della saggezza. So remember that the Mahayana scriptures were created by later people. Ricordiamo che le scritture Mahayana sono state create da persone che hanno vissuto più tardi. So they're not directly the Buddha's words. E quindi non sono direttamente le parole del Buddha. But my own teacher who was a scholar. Il mio maestro, che lui stesso era uno studioso. He said that you could find all Mahayana, the seeds within the Theravada scriptures. Lui diceva che si può trovare tutto ciò che c'è nel Mahayana, i semi di questo sono nelle scritture Theravada. Although we can see that parts of the scripture are very early because of the language. Sebbene si capisce che questa parte delle scritture sono molto antiche, si capisce dal linguaggio. Ah, the Metta Sutta is very early. Il Metta Sutta è molto antico. But the scriptures were obviously, should we say, created a little bit as time went on. Comunque le scritture sono state, si può dire, create piano piano, mentre il tempo andava avanti, mentre gli anni passavano. That by within 100 years, entro un centinaio di anni, there were 18 different schools with their own set of scriptures. C'erano 18 differenti scuole con il loro insieme di scritture sacre. Today we have the Theravada. Oggi abbiamo Theravada. And the Savastavada. E Savastavada. Which is in Chinese. It's all in Chinese. Che c'è solo dai cinesi. And today they're being compared. E si mettono in confronto oggi. The difference is on accent. On accent. How do you say that? Sì, accent. Sì, la differenza è un accento, yeah, che viene messo. It's not. Nothing has been found of any great difference. No, non c'è una grossa differenza. So this is what it is. Yeah. Does that answer the question? there is something about Vipassana and analytic meditation. Analytic meditation. Yeah. Thinking is always going to be tied to your phenomenal world. Tied. Sì. Allora, attaccato, il sì. Il pensiero è sempre legato al mondo fenomenico. It is part of the phenomenal world. E ne è parte. So it can't explain or describe what is beyond. Non può né spiegare né descrivere quello che è al di là. So the Buddha himself says this is beyond words, beyond reason. Il Buddha stesso dice questo è al di là delle parole, al di là della ragione. This is Nibbana, Il Nibbana, the transcendent. So in the koan. Nel koan. Koan, yeah. The intellect is, shall we say, brought to its limits. In un koan l'intelletto è portato portato al suo limite. The koan is Zen. Yeah, il koan è una forma di Zen. So that's why the koans are paradoxes. E questo spiega perché i koan sono paradossi. The most famous one is the sound of one hand clapping. Uno dei più famosi è di ascoltare il suono di una mano che applaude. Una sì. Mano. So most of the koans are like that. La maggior parte dei koan sono di questo genere. So it's really trying to break the power of the intellect. Cerca di break. Di rompere il potere dell'intelletto. So that the intuitive intelligence can liberate itself. In modo tale che l'intelligenza intuitiva possa liberarsi. So that's what we're doing with Vipassana. È quello che si fa con la Vipassana. But it's easier. Ma è più facile. Va bene. Next question. Va bene. Is it? Yeah, because you don't have to think. So we abandon thinking when we practice Vipassana. È più facile, secondo lui, la Vipassana perché non c'è da pensare. Si abbandona il pensiero. Next question. Basta praticare in modo formale 40 minuti la mattina e 40 minuti la sera o sono necessari i ritiri? Are retreats necessary or just just the morning and evening. Solitary practice, 40 minutes and 40 minutes. Is 40 minutes twice a day enough? You don't have to come on retreats, yeah? Actually, if you are living a mindful life, in realtà, se vivi una vita in modo consapevole, I mean, really making that effort to be absolutely mindful with what everything we're doing, facendo lo sforzo di essere completamente consapevole di tutte le cose che fai, and being aware of any reactions so that we don't get caught up in them, essendo cosciente di tutte le reazioni a quello che ci succede, then in a sense you wouldn't need to meditate. In un certo senso non abbiamo bisogno di meditare. Ah, but obviously meditation is a great support. Ma naturalmente la meditazione è un grosso aiuto. And retreats are times when you get pushed. I ritiri sono dei momenti in cui si viene spinti. So we've just done 7-8 days. Noi abbiamo già fatto 7-8 giorni. The first 3 days we're just, as it were, entering the retreat. I primi 3 giorni sono per entrare nel ritiro. If you were doing a long retreat, you would then still have 7 days to build up your energy. Se fai un ritiro lungo, usi 7 giorni per aumentare la tua energia. So I hope that on Friday you felt that you could have just carried on for 8-12 weeks. Sì? Io spero che venerdì voi vi siate sentiti in grado di continuare anche per 7-8 settimane. Yeah. Yes, of course, absolutely. Because you're trained, you're there. Keep Perché, going. Siete lì e quindi si può continuare ad andare avanti. Sì. So retreats are very useful for that. I ritiri sono molto utili per questo. It's also good to do a day retreat occasionally, eh? È anche buono fare un ritiro di un giorno occasionalmente. Even by yourself, just half a day. Anche da soli per mezza giornata. Ah. Sit 1 hour, 40 minutes, walk, sit. It's very good. Sedere un'ora, poi camminare, poi sedere ancora. Ah. Ok, sì, va bene. Next question. Con la pratica di questi giorni la mente si è un po' quietata e mi pare di veder meglio il fluire dei pensieri e godere di più spazi di quiete in me. Così mi viene spontaneo usare questa calma per indagare su questioni che devo affrontare nella vita come decisioni da prendere. Ha senso? During these days, with the practice, the thoughts have slowed down. Thoughts slowed down. And I have spaces of calmness in me. So I would like to use this calm to investigate upon problems that I have to solve in daily life. Has got a sense? This. Should I do that? Did you understand? No. let me think now. When this person was meditating, there were periods of quietness. Periods of quietness. Was that a good time to think about life, to think about the problems of life? Yes, he would like to use this calmness to investigate the problems of daily life. Yes, that's right. No. No, when the calmness comes, quando arriva la calma, that's the time to really draw your attention to the breath. Questo è il momento per portare veramente la vostra attenzione al respiro. Ah, and to stay very still, to begin to see the process of breathing. E di stare lì fermi a cominciare a osservare il processo del respirare. Ah, because here we can really see this process of impermanence. Perché lì si può vedere veramente il processo dell'impermanenza. Ah, so don't waste those times thinking. Non sprecate questo tempo pensando. Also, when you're on retreat, there's not much use in trying to figure out your problems. E anche quando siamo in un ritiro non è utile stare a cercare di vedere quali sono i propri problemi. Ah, because while you're on retreat, things are also changing out there. Perché mentre voi siete a ritiro, anche là fuori le cose cambiano. Ah, so if you have, for instance, a great problem with somebody, a relationship problem. Mettiamo che abbiate un grosso problema di una relazione con qualcuno. Ah, by the time you leave the retreat, they may have died. al momento che il ritiro è finito, questa persona può essere morta. That's a great relief, eh? E sarebbe un bel sollievo. So, a wonderful solution. Una meravigliosa soluzione. And put it this way, most problems have to be solved in relationship of some sort or other. Perché la maggior parte dei problemi devono essere risolti dentro la relazione. And also often we are trying to work out a problem when we ourselves are not clear. When we are ourselves are not clear. E poi anche cercare di chiarire i problemi quando il nostro sé non è chiaro. Quando noi stessi non ci siamo chiariti dentro. And sometimes you have to stay very still. Spesso dobbiamo stare molto fermi. To get in touch with the heart. Per giungere in contatto col cuore. And to see what it is we really want to do. E vedere che cos'è che vogliamo veramente fare. Especially with the more deeper changes within our lives, you know. Specialmente i grossi cambiamenti della nostra vita. Mm. Sì, va bene. If there are questions after I've spoken, please give them, you know. Se ci sono domande dopo che lui ha risposto a queste, chiedetemele. Sì. Okay. Can you say that in Italian? Qual è il momento più idoneo per raggiungere questo tipo di decisione? Vorrei chiedere se ha dei suggerimenti, per esempio dopo la meditazione oppure quando? Well, it's anytime, huh? Anytime. Qualsiasi momento. Qualsiasi momento. whenever you feel that this is a good time for me to try and work this out. Quando senti che è un buon momento per risolvere questa cosa. Doesn't matter. But if you do it in the meditation, then it's not vipassana, it's something else. That's all. Se lo fai durante la meditazione, non è vipassana, è qualcos'altro. Sì. Hai parlato spesso di un sentiero di rinuncia, the path of renunciation. A che cosa dobbiamo precisamente rinunciare e come riconoscerlo? You talk about the path of renunciation. What do we have to renounce to and how to recognize it? Capito. You understand? Francesca, capito? Did you understand? After Massimo's translated, Francesca. After Massimo's translated, nod to say that you've understood. Because sometimes you have this question mark on your face, you know. Sì, che è me translate? Translate. Cioè per lei che parla una strana lingua germanica e più l'inglese. Dice quando hai, se hai capito quello che il traduttore dice, fai un cenno. Mi pare ci sia anche qualcun altro che parla inglese e non italiano, per cui for you is the same, I suppose. Yes, the same. Renunciation is an attitude. La rinuncia è un'attitudine. It's an attitude of letting go of attachment and identity. L'attitudine di lasciare andare gli attaccamenti e l'identità. It's a generalized attitude towards life. È un'attitudine generale verso la vita. So anything that we experience, we can often see that there's some attachment to it or identity. Tutto ciò che entra nella nostra esperienza possiamo vedere che c'è un attaccamento, un'identità in questo. Mm. You can often you often know that because you can feel, you can see the greed, the grasping. Spesso si riesce a riconoscerlo perché si sente l'arrivo del desiderio e dell'afferrare. Or the annoyance or irritation with the situation, or the anxiety about it. O la noia, l'irritazione, l'ansia riguardo una situazione. So any time an unwholesome mental state arises, that's the point where there's an attachment or identity. Tutte le volte che insorge uno stato mentale non salutare, quello è il punto dove c'è un attaccamento alla nostra identità. So that's, yeah. You're okay? Va bene? Sì? Come si sa che è arrivata l'illuminazione? How do you know that you're enlightened? How do you know that enlightenment has arrived? How do you know it? How does an arahat, how does somebody know they've attained full liberation? Come qualcuno sa di aver raggiunto la completa illuminazione? Questa è la domanda. The usual way they say it is that they don't suffer anymore. Usualmente dicono che non soffrono più. È così. This is it. They know. Loro sanno. But we don't know whether they have or not. We don't know whether they have or not. Loro lo sanno, ma noi non sappiamo se loro ci sono arrivati o no. And sometimes you can overestimate. A volte si può sovrastimare. We had a monk at our monastery. Noi avevamo un monaco al nostro monastero. Who wrote a little booklet. Che ha scritto un piccolo libro. In which he describes his path. In cui lui descrive il suo percorso. And that he was now fully liberated. E dice che era completamente liberato. Nobody believed him. E nessuno gli credeva. So, nessuno la credo. Did you sell the book? No. So when this happens, quando succede qualcosa del genere, every 2 weeks, every half moon, ogni luna, come si dice, ogni mezzaluna. Yeah. All the monks come together. Tutti i monaci si riuniscono. They have to make confession of any mistakes or any rules they've broken. Devono confessarsi tutti gli sbagli o tutte le regole che hanno rotto. One to another. L'uno all'altro. And then they determine problems such as this. E poi prendono in esame problemi come questo. So in the discussion about this man, about this monk, e quindi nella discussione riguardo a questo monaco, they decided he was mad. Decisero che lui era pazzo. So that was okay. Okay. He then decided, he then told everybody he was going to die on Christmas Day. E lui poi disse a tutti che sarebbe morto il giorno di Natale. I used to go to a friend for Christmas. Io di solito andavo da un amico per Natale. Because he gave me eggs for breakfast. He gave me eggs for breakfast. Perché lui mi dava le uova per colazione. This is my Christmas celebration. È la mia celebrazione del Natale. And nobody wants him to die in the monastery. Nessuno voleva vederlo morire. No, nobody wants him to die. Nessuno voleva che lui morisse nel monastero. Because there were some lay people who believed him. Perché qualcuno dei laici poteva crederlo. And what would happen is the monastery would then become a place of pilgrimage. E quello che sarebbe successo è che poi il monastero sarebbe diventato un posto di pellegrinaggio. And we also knew he was taking sleeping pills. E noi sapevamo anche che lui prendeva delle pillole per dormire. Ah, so we thought, well, he's going to commit suicide. E quindi pensavamo che lui volesse suicidarsi. Anyway, when I came back, he was still alive. E quando sono tornato, lui era sempre vivo. And shortly after that, his son came to take him away. E subito dopo il suo figlio venne per portarlo via. Ah, portarlo via. Then, after a month or so, he wrote a letter to the abbot. E poi dopo un paio di mesi scrisse una lettera all'abate. In which he said he had been fooled by Mara. He had been fooled. E nella lettera diceva che lui era stato giocato da Mara. Giocato da ingannato, eh? Sì, giocato, sì, nel senso. But he was still an arahat. Ma nonostante questo era ancora un arahant. Ah. Which is impossible. Il che è impossibile. So well, the last time I went, he's still there. He's okay. Still an arahat. Ancora un arahant. When I went, when I returned sì, a few years ago, he was still there meditating. Lui alcuni anni dopo, quando lui ci è ritornato, lui era ancora nel monastero che meditava. There was a monk in Thailand who was had the reputation of being fully liberated. C'era un monaco in Thailandia che aveva la reputazione di essere completamente liberato. And some of you will know of Ajahn Chah. Ajahn Chah. Is that the monk? Yeah. Ah, Ajahn Chah è il suo nome. Eh? No. Some will know of Ajahn Chah. Well known by Ajahn Chah. No. Stop. Some of you will know Ajahn Chah. Alcuni di voi conoscono Ajahn Chah. Okay. So he went to stay with this monk. Ajahn Chah went to stay with this monk. And Ajahn Chah andò a stare con questo monaco. And was fairly convinced. Ed era pienamente convinto. Ah, until he saw the monk give this dog a great big angry kick. Finché un giorno vide questo monaco che dette un gran calcio al suo cane. Because he was stealing the meat. Perché stava fregando la carne. So Ajahn Chah left. E Ajahn Chah se ne andò. Ah, you see, the Buddha says you have to stay, you have to live with somebody a long time to work out what their level of spiritual attainment is. Il Buddha diceva che per capire il livello di realizzazione spirituale che ha una persona bisogna starci per parecchio tempo. It's difficult, eh? È perché è difficile. There's also a real confusion. C'è anche parecchia confusione. Because those people who develop the jhana, the absorptions. Perché ci sono queste persone che sviluppano gli assorbimenti, cioè i jhana. And they can create an aura of loving kindness or peace around them. E possono creare come un'aura di benevolenza e di pace intorno ad essi. And when you become a real practitioner of that, e quando diventi veramente abile nel praticare questa via, that mental state stays with you all the day. Questo stato mentale rimane con te tutto il giorno. As an attitude. Come un'attitudine. And then you go into your practice and absorption. E dopo fai la tua pratica e gli assorbimenti. So to an ordinary person they really do feel saintly. Feel saintly, come un santo. Ah, sì. E quindi le persone normali li sentono come dei santi. Ah, but underneath, you see, are the crocodiles and snakes. Ma sotto ci sono coccodrilli e serpenti. Ah, because they've not dealt with the darkness. Non hanno ancora trattato con l'oscuro, la parte oscura. And the Buddha says this is the problem with jhana practice. E il Buddha disse questo è il problema con la pratica del jhana. So you hear of people who have a reputation of saintliness, but then they get involved in sexual misdemeanors, stealing. ci sono persone che avevano questa reputazione di santità che poi sono stati coinvolti in sexual misdemeanors, di comportamenti sessuali non puliti o stealing anche rubare. Sì, so you have to be careful. Bisogna essere molto attenti. Va bene? Sì. Va bene. Sì, sì. Yes, sure. You mean, have there been arahats? Have there been fully liberated people? Yeah, who have been able to experience something similar to the Buddha. I mean, we hear the Dalai Lama in TV all the time. I mean, is he one of them? I don't think he's ever... Mm. No, he's never said it, no. He's Italiano? Chiedevo se c'era una persona che è riuscita ad avere, a raggiungere un livello mentale o un'esperienza tipo quella del Buddha. Se qualcuno che magari... Yeah, well, the nun that I... the nun that I was... La monaca di cui lui ha letto quella frase l'altra sera. Ah, and her teacher... il suo maestro Ajahn Mahabua. Ah, Mahabua. Sì. You can see him on YouTube. Il suo maestro che era Ajahn Mahabua. I was going to ask you, what did you think about Ajahn Mahabua? Yes, he is. He himself says it. I mean, he says it clearly. I think he's one who said before dying that he had been, he was already an arahant, I think. Ho sentito dire che Ajahn Mahabua aveva detto pubblicamente che era diventato un arahant prima, già parecchio tempo prima di morire. Sì. E questo aveva fatto anche un po' di problemi in Thailandia. there were some problems about this statement in Thailand. Usually, you wouldn't say what level of attainment you were. You wouldn't say. No. Di solito non si dice quale livello di realizzazione che sei arrivato. Because there'll always be somebody who will try to shoot you down. Perché c'è sempre qualcuno che cercherà di la lettera di spararti. So usually they tell you how they experience life. Di solito ti dicono come fanno esperienza della vita. So the normal thing is that I don't suffer. E dicono io non soffro. I don't suffer. Mahabua. M A H A B double O W A. Incidentally, I've seen a book here in the. In the reception about Ajahn Mahabua. It's his book about Ajahn Mun. No, there is also a book about mainly him. A photograph book of Ajahn Mahabua. Okay. Yeah, very good. Ho visto un libro su Ajahn Mahabua proprio lì nella reception, un libro però di foto più che altro. Comunque ho visto c'è anche delle cose scritte che non ho avuto tempo di leggere. Può essere interessante, non so. Next question. Da piccolo ho imparato ad andare in bici e poi non l'ho più dimenticato. Non ho più dimenticato come si fa. Ho la sensazione che con la pratica non sia la stessa cosa. Se mi fermo, ogni volta devo ricominciare da capo. È così? When I was a kid, I learned how to ride a bike, and then I never forgot. No. I have the feeling that with the practice is not the same thing. Yeah. If I stop, every time I have to begin again, yeah. start anew. Yeah. Is that right? To a certain extent. Fino a un certo punto. Yeah, it depends how long you stop. Dipende quanto tempo ti fermi. If your practice is continuous, se la tua pratica è continua, then you definitely keep learning about the practice. Continui a imparare riguardo alla pratica. But you don't have to begin again. E quindi non devi cominciare di nuovo. No. Eh? I mean, you know how to put your attention on the breath, open up, etc. Ci sono delle cose che conosci, mettere l'attenzione sul respiro, eccetera. Sì? No. If you leave it too long, then yes, yeah, you ma forget. Se ti fermi troppo a lungo, allora sì. Yeah, you forget. Ti dimentichi. Nelle ultime meditazioni sperimentavo il respiro nella pancia in basso e nel contempo un suono nella testa in alto. Lo spazio della coscienza li conteneva entrambi. Ma come realizzare anicca della coscienza? Perché mentre per il respiro evidente la coscienza sembra essere stabile. This is difficult to translate. Okay. During the last meditations, I experienced breathing in the abdomen down, sì. And at the same time a sound in the head up. Up. The space of consciousness contained both. Them both. Sì. Okay, this is the first part, and then the question: how to realize anicca of the consciousness? Ah. Because for breathing is obvious, but consciousness seems stable quality. Yeah. No. It's difficult. While she was meditating. She was. I think it was she. I don't know. I don't know. No. He or she. He or she was aware of the breath, and aware of the sound in the head, and it was within this consciousness. And the question is, what's the question? How to realize anicca of the consciousness in the consciousness. All right. How do you realize the impermanence of consciousness. Okay. Consciousness and its object cannot be separated. Consciousness and its object la cannot be separated. La coscienza e il suo oggetto non possono essere separati. Hmm? So, just a minute. Whose question is it? Di chi è questa domanda? This conscience. Do you mean sati, awareness, or vijnana, consciousness? Intendi parlare di sati o di vijnana? Ah, vijnana. Okay. Vijnana. So okay. It's. Yeah. Okay. Sati è mindfulness, consapevolezza. Vijnana è la coscienza. When you're meditating, you find this position up here of the observer, the feeler, and it's looking into this field of awareness. Quando fai la meditazione trovi questa posizione qua dentro che è colui che sente e che sta guardando dentro il campo della Of awareness, della awareness, no. Della consapevolezza. Yeah, we say it's the field of awareness. E quindi c'è questo campo di consapevolezza. Because that's its extent. That's how far it goes. The field. E questo è fin dove arriva. Yeah. But what it is seeing is on a screen. Ma quello che si vede è su uno schermo. Eh? And this schermo, this screen, is consciousness. Questo schermo è la coscienza, consciousness. Eh? For instance, it's like. È come. Don't worry about that. Don't worry. It's like, if you're swimming under the sea, e se stai nuotando sotto il mare, you're aware of all the fishes and the water around you. E sei consapevole di tutti I pesci e dell'acqua che sta intorno a te. Ah, but what is knowing the fishes and the water is not the fishes and the water. Ma colui che riconosce I pesci e l'acqua non è I pesci e l'acqua. But it is all within the field of the swimmer's awareness. Però è nel campo della consapevolezza del nuotatore. See? Yeah, it's all in the field. So inside us there is this show. The world is constantly appearing for us in front of us. Dentro di noi c'è questa performance, show. Questo spettacolo che costantemente accade davanti a noi. Ah, and something, the sati, the awareness that knows it. Somewhere. Sati. E da qualche parte c'è sati, cioè la consapevolezza che conosce questa. Yeah. Okay. That knows it, feels it, experiences it. Che conosce, che sente, che ha esperienza di questa cosa. Okay. So that screen, you cannot separate the screen from the objects on the screen. Allora, quello è lo schermo, ma non si può separare lo schermo dall'oggetto che è sullo schermo. So in Buddhist psychology, the screen is like a stroboscope. You know the lights in the old clubs. I don't know. Yeah. I don't know where they do it now. You know, with allora, ultraviolet light and stroboscopes. Nella psicologia buddista lo schermo è come uno stroboscopio. Sapete cosa sono le luci stroboscopiche? Come c'erano perlomeno nelle discoteche di una volta, le luci lampeggianti. Strobe lights. So, what is happening is that the field of consciousness is not continuous. Quello che succede è che il campo della coscienza non è continuo. As certain information comes, it flashes. Arriva l'informazione e c'è un flash. And disappears. E poi scompare. So it is said that thousands of consciousnesses arise even within a moment. E si dice che ci sono migliaia di momenti di coscienza che insorgono ad ogni momento. Now, if we can look really, if we keep the attention steady, se noi possiamo veramente tenere l'attenzione stabile, it is possible to see that effect. È possibile vedere questo effetto. So you see an object and then there's nothing. E quindi tu vedi un oggetto e poi non c'è più nulla. And then the next object comes. E poi c'è il prossimo oggetto. The object and consciousness are the same. The object that you're seeing and consciousness are the same. L'oggetto che tu vedi e la sua coscienza sono la stessa cosa. Sì. To see it at that level is really to see anicca, impermanence. E vedere a questo livello è veramente vedere anicca, l'impermanenza. Sì, è così. Okay? Sì, sì. That which can see the arising and passing away of each consciousness. Ciò che può vedere l'insorgere e svanire di ciascun coscienza. Which is the world we are experiencing? Which is the world we are experiencing? È il mondo come lo percepiamo. Cannot itself be arising and passing away. colui che conosce questo non può lui stesso insorgere e svanire. Ah. E quindi? So, quello che non... that which does not arise and pass away must be permanent. Ciò che non insorge e svanisce deve essere permanente. And this is a description of Nibbana. E questa è una descrizione del Nibbana. Ah, it is Nietzsche, it is permanent. Nietzsche. Nietzsche. Ah, Nietzsche. Nietzsche, not Nietzsche. Permanent, Nietzsche, permanent. Mm. It's consapevolezza intuitiva. Intuitive awareness. La stessa cosa. It's the intuitive awareness. It's the same thing, huh? See? See. But we have to experience it to be liberated from the delusion. Noi dobbiamo fare un'esperienza della consapevolezza intuitiva. Per essere liberati dalle illusioni. Ah, you see? Otherwise it's just a thought. È just a thought. It's just a pensiero. I thought. Se no è solo un pensiero. Bisogna realizzarla, se no rimane solo un pensiero. Because with the realization of impermanence, there comes also a lessening of a sense of self. Perché con la realizzazione dell'impermanenza avviene anche una diminuzione del senso del sé. Because the attachment is going from the awareness with what it is aware of. Così svanisce l'attaccamento tra la coscienza e ciò di cui essa è cosciente. Sì. Più permango in questa osservazione e più mi accorgo che è così e quindi the more I stay in this observation, the more I realize that this is it. Yeah. E meno mi attacco. That's and right. The less the more I attach. The more you realize it is not you. Capì? Sì. Sì. So più che realizzi che quel esso, cioè quella cosa, non sei te. Sì. If these are the five aggregates, se questi sono i cinque aggregati, okay, the awareness believes itself to be this. La consapevolezza crede che se stessa sia così. Ah, so in meditation we are coming out to look at these five aggregates. Nella meditazione. The body, feelings, sensation, habits and consciousness. The human being, the psychophysical organism. I cinque aggregati. Allora dice, più che si sta nella meditazione, facciamo questo processo di venire fuori e guardare i cinque aggregati. Ah. But we get to a point where we don't see that in fact it is completely different from the awareness. Huh? We don't. We get to a point where we're not certain, we're not completely out, we're here. Noi si arriva a un punto che non siamo completamente fuori da questa osservazione. And every so often we engage, you see. E quindi spesso ci si riattacca, insomma. But if I can get to a point where I can see this objectively, se io posso raggiungere un punto in cui io posso vedere tutta questa oggettivamente. And as I'm looking at it, it's disappearing and coming and disappearing and coming. E mentre io la guardo vedo che questo sparisce e riappare, sparisce e riappare. Ah, so then this says to itself, I can't be that. E quindi questo, quello che guarda, dice a se stesso, io non posso essere quello. Because I'm here when this isn't. Perché io sono qui quando quello non c'è. See? So you break the delusion of self. E quindi si spezza l'illusione del sé. Sì, semplice. Sì, sì, sì. Next one. Illudiamo che sia la nostra consapevolezza, non è la mia consapevolezza, cioè che mi fa vedere questo. Diciamo la mia, la consapevolezza dentro la mia capacità di consapevolezza, non è, è qualcosa che prescinde da me. We see it as my awareness. That's right, that's right. No, that's right. Yes, that's right, that's right. This is the problem with language. Questo è il problema con il linguaggio. Ah, linguaggio. Very good. Bon, un altro. Sì, va bene. Sì. Bhante, hai menzionato tre coscienze. Vijnana, Satipanya, Citta. Ho capito che la prima è la coscienza ordinaria condizionata, la seconda la consapevolezza sperimentata dall'osservatore, la terza la coscienza incondizionata o nirvana, giusto? No. Legge ancora in italiano. Allora, Vijnana, la coscienza ordinaria condizionata. Satipanya, la consapevolezza. Non leggo qui. Scritto io. Sperimentata. Dall'osservatore. Aspetta. Sì. Citta. La coscienza incondizionata o nirvana? Ah, ok, ok. Dice, is it right? Yeah, do you want to translate that? Because in Italian you call all them coscienza. Yeah, it sounds difficult. Let me just say, Vijnana is the consciousness of the five aggregates. Vijnana è la coscienza dei cinque aggregati. It's the screen that I keep talking about. È lo schermo di cui abbiamo parlato. Like a monitor or television. Come il monitor, una televisione. Upon which information manifests. Sul quale si manifesta l'informazione. Vijnana is giving you the sense of unity, the personality. It's in the effect. Yeah, it's screen. That's right. Giving you a sense of unity of all the information you receive. That's so right. It's the ordinary mind. It's the ordinary mind. Sì, è così. Vijnana dice, se vuoi tradurre in italiano. Okay, appunto Vijnana è quello che noi chiameremo intelletto, cioè dà un senso a tutte le informazioni che riceviamo nello schermo, da un'unità per dire io sono. This is displayed on the screen. Displayed. Questo è mostrato sullo schermo. The citta is the whole of the mind. Citta è l'intero della mente. So it's the emotions, thoughts. E quindi c'è emozioni, pensieri. Out of the citta, information comes. Fuori dalla citta arriva l'informazione. Which is displayed on the screen. Che è mostrata sullo schermo. Capito? La citta, you mentioned last time, was the... Unconditioned. Now, the Buddha, when he's describing Nibbana... Quando il Buddha descrive il Nibbana, he has to use the same words that are used in the phenomenal world. E deve usare le stesse parole che si usano per il mondo fenomenico. So he always uses the same word, but with something that indicates it is not of this world. Quindi lui usa le stesse parole, ma con qualcosa che indica che questo non è di questo mondo. So the citta is that which knows. Citta è ciò che conosce. Ah, so by saying it's unconditioned, quando si dice incondizionata, he's obviously not talking about the five aggregates. Ovviamente non parla dei cinque aggregati. He also uses the word vijnana. Anche usa la parola vijnana. There is a consciousness. C'è una coscienza. Which has no manifestation. Che non ha manifestazioni. With no boundary. Non ha confini. Boundaries only exist in the phenomenal world, eh? I confini esistono solo nel mondo fenomenico. And it's full of light. Ed è piena di luce. Just this is the end of suffering. E questo, solamente questo è la fine della sofferenza. Sì. Then, if you remember, there were the spheres of experience. Se voi vi ricordate di questa sfera dell'esperienza. Which depended on your senses. Che dipende dai vostri sensi. The ayatana, si chiama ayatana, sì. I sensi. So the seeing and hearing. Quindi la vista, l'udito. And they don't mix. E non si mischiano. They're discrete, they're separate experiences. Se hanno esperienze separate, separano le esperienze. So then he says, there is an ayatana. E poi lui dice, c'è anche un ayatana. An experience. An experience, al di fuori dell'esperienza? No. Which is an experience. Che è un'esperienza. Che è un'esperienza. C'è un ayatana che è un'esperienza. Where there are none of these other ayatanas. Where there are none of these other spheres. Dove non ci sono nessuno di questi altri ayatana. Ah. È così. Am I confusing people or is it vi sto confondendo? No, it's okay, eh? Yeah, okay. Sì, va bene questo, sì. Home page of the that's me. It's a long question in three parts, so oh, go on. Do you want to answer all of them or just one? Go on. Could you ask the questions? Because that'd be easier for. I can't remember exactly what. Do you want to? Is it this? Yeah. This one page. This is a book. Okay, so I agree that being in the present moment has great benefits. How do we balance being with the present moment whilst running a business 3 to 5 years ahead? Also, may I please bring out one example? Einstein first came out with the idea of relativity whilst he was bored in his editorial job and whilst he was looking out of the window. So maybe not being in the moment also pays off sometimes. How does Buddhism view this? So I think these are probably two questions in one. Is that the first question? Okay, do you want to translate that? Yeah, okay, so sono d'accordo che essere nel momento ha dei grandi benefici, ma come bilanciamo essere nel momento mentre gestiamo un business e dobbiamo pensare 3 o 5 anni in avanti? In più, cioè, a volte non essere nel momento ha dei benefici. Per esempio, Einstein ha inventato l'idea della relatività mentre era annoiato che lavorava nel suo lavoro da giornalista mentre guardava fuori dalla finestra. Quindi forse noi non siamo fatti per essere nel momento sempre. Being in the present moment simply means attending to what you're doing. Vivere nel momento presente significa semplicemente stare in quello che si fa. So remember two qualities. Remember two qualities. Ricorda, ci sono due qualità. Attention and care. Attenzione e cura. That's it. That's being in the present moment. Quello è essere nel momento presente. Now, if a person at the back of their mind is dealing with a problem. Se una persona nella parte di dietro della mente, cioè non so se si capisce questa. In the back of the mind, diciamo qua sì. Dietro, se uno sta parlando di altri, sta discutendo di altri problemi. We have to be careful not to be too technical. So, no, non siate troppo tecnici. While if there is some problem that somebody is thinking about, c'è qualche problema e uno ci sta pensando. And the mind, and at some point the mind rests. E in qualche, a un certo punto la mente si ferma, si riposa. Si posa. And so Einstein was just looking out of the window, perhaps feeling a little bored. E quindi Einstein stava guardando fuori dalla finestra, forse si sentiva un po' annoiato. But the mind actually is just generally clear, it's not pointed. Ma la mente in realtà era chiara e non era su un punto. This background program suddenly produces something which appears on consciousness. Questo programma che gira in background a un certo punto produce qualche cosa che appare sullo schermo. I think all of you will have experienced having a problem. Penso che la maggior parte di voi avrà avuto l'esperienza di avere un problema. And perhaps you wake up in the morning and it's there, the answer is there. E magari ti svegli la mattina e ecco la risposta. So this is similar to the process of the koan in Zen. E questo è simile al processo del koan nello Zen. So Einstein was already working, I think, on this problem. Probabilmente Einstein stava già lavorando su questo problema. In the same way of Luther. Of? Luther. Luther, the one who started Protestantism. Nello stesso modo Lutero. So he was going through an internal turbulence about the teachings of the Church. Lui aveva una turbolenza interiore riguardo agli insegnamenti della Chiesa. Especially over this problem of faith and good works. Specialmente sul problema della fede e del good work. And good works, yeah. And the answer came to him. E venne la risposta a lui. While he was sitting on the toilet. Mentre sedeva al gabinetto. Ah. Sì? So while he was relaxing. Mentre si rilassava. While he was letting go. Mentre stava lasciando andare. Va bene. The next question, yes. Also appears to be one of the most to have opened one of the most funded charities in the world, trying to stop malaria. How can a business owner make lots of money and at the same time be an ethical person and a Buddhist? I struggle to believe that there are Buddhists who are billionaires in the essence of the question. You want to translate? How would Buddhism view billionaires? You mean making money? Yeah. Do you want to translate that? Okay. Just the core question. Okay. Il cuore della domanda era se miliardario buddista, e come i buddisti vedono gente come Bill Gates che ha fatto una massana da molti molti soldi, esiste o com'è? Yeah, I remember it's all to do with your intention. Ricorda che ha tutto, tutto ciò concerne la tua intenzione. Ah, if you have a great skill like these footballers, se hai una grande abilità come footballist, and come un giocatore di calcio, and the system you are playing in is working with vast amounts of money. Il sistema in cui stai giocando comprende anche grosse somme di denaro. Then it comes to you. E questo ti arriva. Ah, so if you've got a good idea, did you like Gates? Was that the person you mentioned? Yeah, Bill Gates. If you have a good idea and capacity, then of course the wealth will come to you. Quindi anche Bill Gates, che aveva una buona idea e capacità, il denaro gli è arrivato. Ah. It's why you do it and what you do with the proceeds that is going to be either wholesome or unwholesome. E il punto è perché lo fai e come ti rapporti con questo processo che può essere salutare o non salutare. Ah. So, for instance, the first lay supporter of the Buddha was Anathapindika. Il primo supporter laico del Buddha è stato Anathapindika. Anathapindika. Anathapindika was a merchant. E che era un mercante. And he was one of the new rich people in society. Ed era uno dei nuovi ricchi nella società. Yeah. That sort of mercantilism was just growing at that time. Perché a quell'epoca c'era questa crescita di questo nuovo mercantilismo. And he was the first to buy the Buddha his first monastery. E lui ha comprato per il Buddha il primo monastero. Yeah. And it's understood that he died a Sotapanna. He died on that stream entry. Si dice insomma che sia morto come Sotapanna stream entry, quello che è entrato nella corrente. Ah. So this is the first level of the process, eh? Che è il primo livello del processo. So it didn't stop him from developing spiritually, this is the point. E quindi non gli impedì di sviluppare la spiritualità. Ah. So, no problem. Was there a third question? I think this one is related, yeah. People like Elon Musk or Steve Jobs, I don't know if you know Elon Musk. He started PayPal. Yes, that's right. He made billions and he moved on, created Tesla, which is an electric car. Yes. And now he's doing rockets to go to Mars, just to go to space. I've read his biography. I don't think he's that kind of guy who is contented. No. He's creating value, though. So I kind of struggle a bit with contentment, because I find that contentment sometimes can be, value is a strong word, but, you know, it kind of doesn't motivate you perhaps to come up with new ideas or to strive for something better. Now, I do admit that people like Steve Jobs don't need to do iPod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iPhones, one after the other. Yeah. So there has been, it's going to be too fast for us. So, yeah. The question is, contentment maybe, it can be a little bit of a barrier to innovation, striving for more and, you know, See. So the question, can you isolate the question? The question is about contentment and action. Contentment and innovation and action. Yeah. Yeah, okay. Mm-hmm. And can you translate? Yeah. La domanda è circa sentirsi appagati. A volte, personalmente, mi fa un po' paura perché penso che mi fa un po' Yes, you lack initiative, you lack ambition. Sì, mi mancano, cioè non mi viene di avere nuove idee di come migliorare certe cose, creare un nuovo prodotto. Quindi persone come Steve Jobs o Elon Musk sono andati oltre, hanno creato prodotti che hanno aiutato anche la società. Sì. E a volte faccio difficoltà cioè, nonostante mi piace il concetto a sentirmi appagato, a volte è in contrasto con il mondo del business, dove invece portare a fare di più ti porta a nuove idee. Ah. Contentment is a mental state within ourselves. Il contentment, cioè l'appagamento, è uno stato mentale dentro di noi. Ah, it's a state of feeling that you have enough. È uno stato di sentire che abbiamo abbastanza. Ah, therefore, if you want to do something, you have to have another reason. Quindi, se tu vuoi fare qualcosa, devi avere un'altra ragione. Which doesn't include you so much. Which doesn't include you so much. Che non ti include così tanto. Sé. Oneself. Il sé, sì. Sì, sì. So, what would that motivation be? E quindi, quale sarà questa motivazione? It could be the natural human inquisitiveness into the world. Potrebbe essere la naturale curiosità dell'uomo che si applica al mondo in cui vive. Leading the person to science. Che porta l'uomo verso la scienza. It could be service, absolutely. Service is the main, drive, motivation, thank you. Service, grazie. Service is your main motivation. Il servizio potrebbe essere che è la tua maggiore motivazione. Yeah. So, right livelihood is to see oneself at the service of. Quindi il retto modo di vivere è di vedersi al servizio di. Okay. They have to make money for the shareholders, so. Yeah, well, you have to make money for the. That's, you're at the service of the shareholders. dovevano fare soldi per quelli che hanno le azioni, quindi erano al servizio di questi. I think you have to be. You have to understand that we are in an imperfect system. Bisogna capire che noi siamo dentro a un sistema imperfetto. And you work with it as best you can. Ci lavori nel miglior modo che puoi. Even if shareholders are making money by just having money. Anche se quelli che hanno le azioni fanno soldi dal fatto che hanno i soldi, solo perché hanno i soldi. Overall, what you're doing is for the benefit of mankind. Alla fine tutto quello che fai è per il beneficio dell'umanità. This is capitalism. Questo è il capitalismo. Well, a Buddhist capitalism è possibile. Yeah. Buddhist. Sì? Va bene. Half convinced. Yeah, sure. Of course. That's right. So some evolutionary psychologists, you know, if you read, they say this is new human nature, you know, it's competition drives innovation. And no, this is exactly the error based on greed, hatred and delusion. But actually it doesn't have to be that at all. Eh? This is the delusion based on greed and hatred. Just me, you have to translate. You have to translate what needs a question before. Cioè, quando sei nel mondo del business ci sono molta competizione. Ci sono compagnie che non hanno compassione per te. Anche se tu stai creando un valore al mondo, ai tuoi clienti, loro vogliono tirarti via dal business. Non aspettano minuti. cominciano lì a pensare, ma come mai lui, eh? Quindi ci sono teorie del tipo la psicologia evolutiva di quando eravamo nelle caverne, insomma, dove se non c'è questa competizione, se non c'è questa lotta, la gente non si evolve, le compagnie non si evolvono, le nuove idee non escono. Quindi volevo capire come il buddismo interpreta questa cosa, perché cioè, anch'io sono stato molto stupefatto da questi comportamenti. I was very surprised by this kind of behavior. Yeah. So this understanding comes because such researchers accept that that's the way human beings have to behave. Huh? Questo viene dal fatto che questi ricercatori accettano il modo in cui gli uomini si comportano. Sì, capì? Sì. But it doesn't have to be like that. Ma non deve necessariamente essere così. In the science community they share information. In the science community they share information. Nella comunità scientifica si condividono le informazioni. Ah. No, this is the Google. Ah, yes, Google. It's one of the most successful companies right now. They're promoting a contest of jobs in order to people to produce the best money. And they're really doing that. Yeah. In Italiano. Google, che questa società che Google, all'interno della loro società stanno promuovendo un contesto di gioia dove le persone riescono a collegarsi l'uno agli altri in un contesto più di amore e di compassione che di competizione. Ecco. C'è un modo di produrre maggior valore. Ci sono degli spazi all'interno del personale che sono destinati alla medicina. Questa è un'esperienza, ma non è l'unica. La moltitudine sono delle aziende che stanno. Sì. That's interesting. So, yes, so this idea of there has to be competition is based on the understanding that humans are greedy. And hateful. Le neuroscienze lo stanno mettendo in evidenza, che il funzionamento dell'essere umano, quando è in grado di attingere a un funzionamento della gioia, quindi più aperto, è molto più in contatto con le risorse che crea. Ecco. E questo è. Ecco. Sì. Penso, sì. Confermi le cose da dire. Sì. Can you do you want to say that in English just a little bit? There is also all the neuroscience in the last 20 years of research, they are demonstrating that how human beings are functioning, when they are in joy, they are a lot more in contact with their resource and able to produce the best value in order to answer the problem that they face. That's it. Business or any other. Yeah. Yeah, I agree within the organization. I know. I agree with you within the organization. But other organizations, when you are successful in what you do, they are in the same market. They want to take your market and they want to kick you out. Yeah, but that. So they don't care about cooperating. No. Just say that in Italian. Sono all'interno dell'azienda sono d'accordo. Google fanno dei concetti favolosi. Ho sentito anche, ho conosciuto una persona che fa mindfulness all'interno di Google, però stavo parlando di azienda fuori e azienda all'esterno che sono nello stesso mercato e combattono per lo stesso cliente. Sì. Tipico comportamento, azienda A vuole buttare via azienda B, non gli interessa niente di quelli che hanno le famiglie o i soldi da fare all'interno di azienda B. So this is the world of samsara. Questo è il mondo del samsara. Driven by greed, hatred and delusion. Che è basato su desiderio, odio e illusione. It doesn't have to be like this. Non deve necessariamente essere così. But while you're in the world of samsara, you have to keep your wits about you. Quando sei dentro al mondo del samsara devi stare molto attento. Bene, sì. So it's nearly 6 o'clock. Upekka è non avere preferenze, ma non essere indifferenti. No. Vuol dire che non si prova più attaccamento e avversione? Question mark. Does it mean that upekka you don't feel attachment or aversion? Upekka is just that state where, in a sense, you're at rest. Upekka è uno stato in cui, in un certo senso, sei a riposo. Ah, and it's a state of being not taking sides. È uno stato in cui non prendi le parti di qualcosa. So when something comes, there has to be some other quality to deal with the situation. Quando arriva qualcosa, ci deve essere qualche altra qualità per trattare con questa situazione. So, for instance, you might need compassion. Ad esempio, puoi aver bisogno di compassione. But because it's on this basis of equanimity, ma poiché c'è questa base di equanimità, it doesn't slip into that near enemy, that's all. Grief. Non si trasforma nel suo nemico vicino. Yeah. That's what equanimity does. It keeps you aloof. Come si chiama? Aloof. Ooh. It keeps you aloof. Aloof. Just a minute. It keeps you equanimous. Qualcuno conosce il significato in italiano di aloof? Aloof. You have to be careful. Aloof isn't quite right. So. Anyway, that's it. That's the next question. Anyway, nobody knows how to translate it into Italian, no, so it doesn't matter. So the next question is: puoi parlare del ruolo della comprensione nello sviluppo della compassione? Can you talk about the importance of understanding in developing compassion? Well, the wisdom you have expresses itself in compassion. La saggezza che hai si esprime nella compassione. Ah, that's it. Compassion is wisdom in action. La compassione è la saggezza in azione. Ah, ecco, vabbè. Vabbè, that's sì, grazie. È tutto qui. In alcune delle ultime sedute ci sono stati sbadigli uno dietro l'altro per una buona parte del tempo. Significa che la pratica stava calando di intensità? There have been a lot of yawns in one of the last sittings. Yeah. For a good part of it. Does it mean that practice was slowing down in a way? Come si dice, calare di intensità? Okay. I was like, no, decreasing. Yes, no, I think you were just relaxing. Penso che ti stavi semplicemente rilassando. Va bene. Va bene. That's all right. Il karma esclude il concetto di caso? Question mark. Does karma excludes the concept of chance? Of chance. Casuality. Caso. It's yours. Everything. No. No. No. Casuality. Causality. Yeah. Chance. Yeah. Qualcosa che succede per caso. Ah, yeah, ok. Randomly happening. No. By chance. Everything is conditioned. Tutto è condizionato. But we don't know the conditions that exist even now. Noi non sappiamo se la... Conditions that exist now. La condizione che esiste ora. So we have accidents. E quindi ci capitano delle... accidenti, degli incidenti. Well, the question is there chance? Is there chance? Come si dice? How do you say that in German? Is there chance? Happenstance. Something that happens by chance. By random, by casualty. Yes. Yes. Like, it does something happen without a cause? Okay, right. Okay. Seemingly without a cause. Yeah, without a cause. No, what happens is we don't see all the causes of a particular event. Ah, il punto è che noi non vediamo tutte le cause di un particolare evento. I heard of this man who came out from a pub, drinking. Ho sentito dire di quest'uomo che è uscito da un pub dove era stato a bere. And he went to the edge of the property. E andò fino al confine della proprietà. And there was a bank going down to the road. C'era uno scivolo che andava giù verso la strada. So at that time of night there's hardly a car. A quell'ora di notte è difficile che ci sia una macchina. He fell over, landed on a road, and the car ran over E lui cascò giù, scivolò per questo scivolo, arrivò sulla strada e passò una macchina e lo schiacciò. The car was there for its own cause. La macchina era lì per le sue proprie cause. He was there for his own cause. E lui anche era lì per le sue proprie cause. They just met at a point in time. E loro semplicemente si sono incontrati a quel punto del tempo. So that's why the Buddha says it would drive you mad to work out your karma. E questo è il motivo per cui nel buddismo si dice che ti fa diventare matto se vuoi capire il tuo karma. No, sì. Sì. If you think that the man died because in some past life he ran over somebody purposefully. Se vuoi pensare che quest'uomo è morto perché in qualcuna delle sue vite precedenti aveva schiacciato qualcuno di proposito, then this would be a misunderstanding of karma. Questo sarebbe un'incomprensione del concetto di karma. Because actually our real karma is our mental state. In realtà il nostro vero karma è lo stato mentale. So his past conditioning led him to get drunk. E il suo condizionamento passato lo ha portato a essere ubriaco. And it's not a good thing to die when you're drunk. Non è una buona cosa morire da ubriaco. So whatever mental state arises after that is his karma. Qualsiasi stato mentale che insorge dopo questo è il suo karma. And this mental state will enact itself through his actions. Questo stato mentale will express itself through his actions. Si esprimerà nelle sue azioni. And so he will create something in the world. Lui creerà qualcosa nel mondo. But in the world other people are also creating. Ma nel mondo ci sono anche le altre persone che stanno allo stesso tempo creando. So you don't know what will happen when you do something and when you act into the matrix of relationships. E quindi tu non sai esattamente quello che succederà quando agisci nella matrice delle relazioni. So it looks like an accident, but all of it will have its own cause. Sembra un incidente, ma c'è una causa di tutto. Yeah. It's the butterfly. Eh? The wings of the butterfly. The wings of the butterfly, ecco. Le ali della farfalla. If you have a peaceful day, if you just go to sleep and you never wake up again, then you have a calm mind. Yeah. Sì, così. Maybe. Can you... if you die peacefully... I didn't quite get it. If you die peaceful... If you die peaceful... Next life, dice, se muori pacificamente, allora nella tua prossima vita avrai la pace. It's understood that the state you die in remains your... substrate of your mind. Si dice che insomma è compreso che lo stato in cui muori rimane come un substrato nella tua, sotto alla tua mente. Naturalmente, sì. Sì. Siamo finiti? The last one. No. Qual è il limite tra accetto tutto perché posso praticare e non farsi calpestare? Che significa? Sì. The limit, he says, the distinction between I accept everything because I can practice and farsi calpestare, don't make yourself, don't make people step over myself. Let me think now. What was the first bit? The first part is I accept everything because I can practice. Okay. So does acceptance mean that people can take advantage of you? Yeah. È così, eh? Okay. Allora, questa accettazione significa che le persone possono avere possono trarre un profitto su di te. Sì? Yeah. This is acceptance without wisdom. Questa è un'accettazione senza saggezza. Ah, yes. Acceptance is open to the situation. Accettazione è aprirsi alla situazione. But then we do what we have to do within a given situation. Ma poi facciamo quello che dobbiamo fare dentro a quella data situazione. It's the same problem that comes with love. Stesso problema è con l'amore. At what point in a relationship which has gone wrong, a un certo punto in una relazione che è andata male, would it be right to leave the relationship? Potrebbe essere giusto lasciare la relazione. Should somebody who love take the cruelty of the other person? Should they accept it constantly? La domanda è: uno che è innamorato o deve accettare continuamente la crudeltà dell'altro in una relazione? No, because you're forgetting, you also have to love yourself. No, perché ti stai dimenticando che devi avere amore per te stesso. So when you realize that the other person is doing you harm, then you have to go, eh? Quando comprendi che l'altra persona ti sta facendo del male, allora te ne devi andare. Or get rid of the other person. O liberati di quella persona. Ecco. A crime of passion, come si dice? Un crimine di passione, un delitto passione. Passionale. Ecco, sì. Ecco, finito. Finito. Va bene. I can only hope my words...